Allora forse possiamo cominciare, nonostante la pioggia. Vi ringrazio di essere presente a questo terzo incontro, prego professore, no, del nostro seminario permanente sulla modernità. Ringrazio naturalmente particolarmente il professor Alessandro Pizzola, che è a tutti noto come un maestro della riflessione politico-sociale e autore di testi che ormai sono dei classici della scienza sociale. E io ricordo quando è uscito Il potere dei giudici, Il controllo è un testino, diciamo, e adesso recentemente Il velo della diversità. Posso solo aggiungere con giustificato orgoglio che il professore fa parte del comitato scientifico della fondazione. A proposito, il direttore della fondazione, che poi l'inventore di questo ciclo, il professor Maranao, si scusa di non poter essere presente perché è impegnato a Brescia con una relazione di quel luogo. Il professore, come avete visto, ci parlerà del tema, anzi del concetto, se non ho inteso male, di relativismo, che oggi viene usato più o meno a proposito molto frequentemente. Grazie ancora, professore. Già pronti alla... Sono io che ringrazio molto di questo incontro, mi fa molto piacere rivedere tanti amici e poter così aprire un discorso con i romani, che vedo così raramente. E questa conversazione e ha avuto diverse incertezze. Una era quella che prima si chiamava di relativismo, poi si è chiamata, se non sbaglio, in un certo relativismo e nichilismo. Poi io ho mandato una nichilismo veniva dal fatto che io avevo fatto due lezioni a Roma 3 l'anno scorso sul relativismo, e non volevo che apparissero come le stesse cose che facevo allora, quindi chiarire la diversità. In realtà poi un'altra cosa è che sono stati distribuiti, se non sbaglio, il testo in realtà in forma di dialogo proprio allo scopo di chiudere con l'aspetto lezione che c'era stato l'anno scorso. Questo dialogo l'ho dovuto fare un po' in fretta e non l'avevo corretto, e quindi credo che siano distribuite diverse copie, nessuna autentica. E quindi la leggo io appunto, ed è il dialogo fra un relativista temperato e un amico perplesso. In realtà tutti e due sono chiaramente perplessi, ma insomma adesso vediamo un po' come viene fuori da questa cosa qui. L'amico perplesso incomincia, dice: parlavo qualche giorno fa con un nostro comune amico del dibattito intorno al relativismo etico, e lui mi ha suggerito di parlarne con te, forse perché pensa che tu sia un relativista temperato. Quando? Come quando? Vuoi sapere quando è che ne parlavamo? No, voglio sapere quando io sarei un relativista. Ma in genere, come si fa a essere un relativista in genere? Essere relativista non è un carattere fisico che ti porti sempre dietro, non ti è attaccato alla pelle neanche alla tua identità civile, come il tuo essere maschio o femmina, italiano, turco, nato a Trieste, Istanbul. Tutti questi sono attributi che non cambiano. Tu vuoi dire che essere un relativista, si può essere relativista in determinate occasioni e non in altre, che passando dall'una all'altra si può cambiare secondo le circostanze. Dico semplicemente che quello che alcuni chiamano relativismo non è né una religione, né una scuola filosofica, né un partito, né è, come alcuni dicono, la sintesi di un'interpretazione specifica della modernità. Che quindi non ha senso essere pro o contro il relativismo, come sembrano alludere i titoli di certi libri recenti o di certe omelie religiose o laiche che siano. Allora dimmi tu che cos'è. Beh, intanto dimmi che tipo di relativista ti hanno detto che io sia, etico o epistemico? Ma non saprei, tu come li distingui? La distinzione è semplice, almeno a prima vista. Il relativista epistemico, o anche detto cognitivo, è colui che sostiene che ciò che è vero o falso varia da società a società, quando non addirittura da momento storico a momento storico, e che non possediamo un criterio che ci permetta di stabilire quale sia la verità. Il relativista etico, invece, è piuttosto interessato a sapere come variano i modi di comportarsi delle persone, che regole seguono nei loro rapporti, in che modi organizzino la vita sociale e politica e i loro costumi. E ritiene che questi modi e regole siano dettati da convenzioni e che queste convenzioni variano da società a società, da ambiente culturale ad ambiente culturale e che non siano sussumibili in regole universali e ancor meno siano riducibili a semplici variazioni delle regole che noi conosciamo nella nostra cultura. O per usare la formula contenuta nella dichiarazione del 1947 redatta da una commissione sui diritti dell'uomo dell'Associazione Americana di Antropologia, che si opponeva all'idea di diritti universali nelle formulazioni che stavano per essere formulate l'anno, e saranno state formulate l'anno dopo dalle Nazioni Unite, per usare la loro formula, i relativisti, quali essi certamente erano, quali questi antropologi certamente erano, sostengono che i valori morali che danno senso alla vita di un individuo sono formati, are shaped, dall'insieme dei costumi del gruppo del quale un individuo è membro. L'idea di fondo che ispirava questa posizione degli antropologi era che non si può parlare di diritti universali dell'uomo, ma solo di diritti degli uomini che sono propri al contesto culturale nel quale essi vivono. Insomma, per riassumere la differenza fra i due tipi di relativisti, al relativista cognitivo preoccupano i conflitti tra le idee, al relativista etico interessano i conflitti tra gli uomini e le collettività. L'amico dice, beh, trattami come se fossi interessato a cosa pensano quelli del secondo gruppo, cioè i relativisti etici. Ma se continui ad esprimerti in questo modo, dice il relativista, facciamo un passo indietro. Non esiste un gruppo o partito di persone che si distinguono per pensare in modo diverso da un altro gruppo. Pensare, ammetterai, dopo tutto, è un'attività dai contorni molto imprecisi. Pensare a che proposito, in quale occasione, di fronte a quale specifico problema. Insomma, lasciami dire, l'approccio migliore è di immaginare una certa situazione nella quale si manifesti la possibilità di un conflitto tra soggetti morali e che per risolvere questo specifico conflitto le persone coinvolte debbano agire seguendo determinate regole e che l'enjeu, la posta della soluzione, consista nel rendere minima, attenuarla, smorzarla, la minaccia che i soggetti coinvolti nel conflitto sentono gravare sulla loro diversità, la loro identità, la loro cultura e tradizione. E che questa minaccia venga da parte di tutto quello che nei loro valori distintivi è strano a quelli che sono i loro valori originari. Ora, di fronte a tale situazione ci si può muovere ispirandosi o a posizioni, cioè chiamiamole una serie di regole circostanziate, che chiameremmo appunto di relativismo morale, oppure in modo opposto a principi che chiameremo di tipo universalistico, o nella dizione che altri adoperano di assolutismo morale. E tutto questo in situazioni specifiche e non secondo principi che possono valere per ogni situazione. Insomma, tu dici che quello che occorre distinguere sono le posizioni che ispirano o guidano gli uni o gli altri atteggiamenti e comportamenti, e che l'ambito di, e che l'attributo di relativista si può applicare a un modo di agire, di decidere, di intervenire, e non a una persona o scuole di pensiero in generale, ma all'agire di un soggetto che si trova in una determinata situazione. E così, era l'amico che parlava. Sì, dico proprio così, ma ho anche bisogno che tu mi chiarisca un altro aspetto della tua curiosità. Quando si parla di posizioni del relativismo etico, si possono intendere due cose. O le posizioni di coloro che sono interessati a studiare come stanno le cose, e sono le posizioni del filosofo, del ricercatore storico, sociologico, antropologico, dello studioso in genere. O invece si possono intendere le posizioni del partecipante in una situazione sociale data. Nel primo caso, il caso dello studioso, relativista sarà colui che nega che operino codici morali di validità universale, e che codici morali che siano riferibili ad una stessa formula giustificatoria e che siano accettabili da chiunque, indipendentemente dal contesto in cui avviene l'azione. Questa è la posizione che viene anche chiamata di relativismo metaetico. Quanto invece ai problemi che riguardano il partecipante ad una situazione sociale data, il soggetto all'interno di una situazione sociale data, i problemi saranno di natura normativa. I primi erano di natura cognitiva, invece questi sono di natura normativa del tipo: è giustificabile dare giudizi morali sui comportamenti delle persone che sono guidati da valori diversi da quelli da cui siamo guidati noi? Come dobbiamo comportarci nei conflitti in cui simili diversità vengono alla luce? Capisco la differenza, dice l'amico che si sforzava già un po' di capire, ma insomma aveva ancora qualche problema. Capisco la differenza, ma mi sembra che occorra considerare queste due posizioni come indagini che tendono ad essere l'una parte dell'altra. L'uomo morale, il partecipante, si trova ad avere quei problemi normativi perché non ha ancora ben risolto i suoi problemi conoscitivi. Il relativista gli dice: penso che sia abbastanza giusto quello che dici, ma seguendo il metodo sostenuto all'inizio, dobbiamo prima cercare di avvicinarci ai casi concreti. Lì si potrà vedere come posizione conoscitiva e posizione normativa si intreccino. Insomma, dice l'amico, vuoi proprio arrivare a sbarazzarti di tutti quei giudizi che bollano il relativismo in generale come fosse una fede o partito politico o scuola filosofica. Sì, proprio così. E aggiungici un altro termine, che pure è stato adoperato dal maggior filosofo della seconda metà dell'Ottocento, che abbia criticato e con grande penetrazione il relativismo etico. Parlo di Bernard Williams. Nei suoi scritti, riferendosi al relativismo, usa il termine outlook, cioè punto di vista, cioè dice il relativismo è un outlook, è un punto di vista. O a volte dice belief, il relativismo è una credenza. Ma un punto di vista è tale in quanto la persona guarda un determinato oggetto che sta in una determinata posizione, avendo in mente di utilizzarlo. Se si guarda un pezzo di roccia con qualche, si guarda un pezzo di roccia con qualche scopo, conoscerne la natura geologica, o dipingerlo, o scalarlo, o riposarcisi sopra, o farlo saltare in aria, cioè a seconda del rapporto che si vuole stabilire con quell'oggetto. Che cosa si il relativista operare? A che scopo vuole il relativista operare con l'oggetto che giudica? E quanto alla credenza, un altro termine che William usa, come del resto usano molti altri filosofi, cui il termine credenza sembra chiaro, quanto alla credenza si è sicuri che questo termine sia chiaro cosa voglia dire? Immagina di chiedere a qualcuno se è un credente. Ti risponderà in che cosa? Gli dirai in Dio. Ti può dire sì oppure no. In entrambi i casi ti resteranno niente più che dei numeri da calcolare in un sondaggio. Un'etichetta per uno degli scaffali della tua biblioteca. Non saprai nulla del rapporto che passa tra il credere e la sua vita e il suo agire. Gli chiederai quando credi. Certo non crederai tutto il tempo. Ti dirà quando prego, oppure quando mi inginocchio, oppure quando vado in chiesa, o quando guardo il cielo stellato. Sei sicuro, gli dico. Non sarà per caso che quando credi è perché ti hanno domandato, o meglio, quando ti sei domandato, se credi. Che poi probabilmente questi sono proprio i momenti del dubbio. Il tuo essere convinto di credere è molto probabile che si accompagni col timore di non credere. Se capisco, dice il povero amico a questo punto, mi sembra che tu voglia arrivare a dire che il relativismo non esiste. Beh, se vuoi. Non vedo poi che conseguenze nascerebbero dal dire questo o dal dire il contrario. Le cose non cambierebbero, mentre le cose cambierebbero, almeno potenzialmente, in altri momenti. Quando ci si troverà ad analizzare un certo modo, situazioni di difficoltà o di incertezza in cui possono trovarsi le persone o i gruppi, e in cui il soggetto apparirà comportarsi o come se fosse un relativista o invece come se fosse un universalista o assolutista morale. Come la situazione dell'ora è relativa, ma insomma. Buona. Ma tu dici, sempre l'amico, che la dottrina non esiste, ma il termine che vi si riferisce, relativista, pure lo usi. E poi perché hai usato il termine apparirà? Beh, proprio per mettere in risalto che dietro un certo atto non c'è una persona in genere. E che questa era, ricorderai, l'espressione che tu usavi nella tua domanda iniziale. Non c'è un ricercatore che usa certe formule prestabilite quando cerca di interpretare un fatto. Facendo così sarebbe per forza un assolutista morale che valuterebbe ogni situazione e ogni scelta morale che essa implica alla luce di una formula specifica. Ad esempio un utilitarista interpreterebbe, giudicherebbe qualsiasi azione in funzione del fatto che massimizzi o meno la felicità del mondo. Un kantiano ne considererebbe la possibilità dell'applicazione, in quel caso, dell'imperativo morale. Ma non credi che si potrebbe allora parlare di una pluralità di universalismi? La formula interessante è anche l'attrattiva di contenere una manifesta, ma anche ha l'attrattiva di contenere una manifesta contraddizione in termini. Può essere ottima per fondare qualche altro partito, ma basterebbe sforzarsi un po' per immaginare che i diversi universi, contenenti diversi tipi di umanità, e in genere mai incontrandosi l'uno con l'altro, al momento dell'incontro non farebbero che riprodurre altri relativisti, far nascere altri relativisti. Da tutto ciò devo dedurre, dice l'amico, che si danno diverse situazioni e che in talune di esse certe persone appariranno comportarsi da razionalisti, altre no. Lasciami ridire a modo mio quello che hai appena detto, perché giustamente serve a mettere in luce come entrino in contatto il relativismo metaetico e quello normativo. Immaginiamo una serie di situazioni sociali, chiamiamoli contesti. L'osservatore che esamina questi contesti scopre in ognuno di essi norme e costumi non riducibili a qualche valore comune o universalistico. E qui siamo in quello che abbiamo definito prima come ambito metaetico. L'osservatore scopre inoltre che qualche evento individuale o collettivo che mette in contatto questi due o più contesti sta avvenendo. I soggetti che compongono questi contesti sono allora portati a decidere condotte e formulare giudizi morali, ognuno riguardante un contesto diverso dal proprio. Le decisioni riguardanti le condotte da assumere e i giudizi da dare genereranno conflitti e incertezze. Entrerà probabilmente in gioco l'inconciliabilità delle norme d'azione da assumere. E qui siamo nel relativismo normativo. Adesso capisco perché sia giusto che occorra partire da un quando, dice il povero amico a questo punto rassegnato. Esatto, ma a questo punto mi sembra di avere diritto a una tua risposta, dice l'amico. E allora io incomincerò a risponderti chiedendoti di immaginare possibili situazioni reali in cui una persona possa trovarsi di fronte all'alternativa di condursi in modo relativistico o in modo assolutistico. Così a prima vista non saprei elencarti tutte le situazioni che mi vengono in mente, dice l'amico. Per esempio, quando qualcuno, un antropologo, un viaggiatore o uno storico, si trova di fronte a fatti o a documenti propri di una cultura differente dalla sua. O qualcuno, un missionario, per esempio, si trova di fronte a una persona che esprime idee o atteggiamenti che rivelano una religione diversa dalla sua. Oppure quando veniamo a sapere che uno straniero ha commesso fatti che ci sembrano infrangere non solo il nostro ordine giuridico, ma anche la nostra concezione morale. Quando, per esempio, una madre opera o fa operare la figlia per la clitoroctomia o quando viene praticata la poligamia. Quindi adesso finalmente rispondimi, come si comporta un relativista etico di fronte a condotte così lontane da quelle che gli erano state insegnate da ragazzo e che aveva accettato fino a un certo momento come familiari, perché non rappresentavano per lui nessun dilemma? Come dobbiamo formare i nostri giudizi quando uno storico ci descrive il genocidio degli indiani di America o il cannibalismo bellico nutritivo degli antichi aztechi? come dare giudizi morali su personaggi storici che hanno perpetrato delitti che sono passati alla storia, o sentirsi indignati per episodi come il bombardamento di Coventry, o quello di Dresda, o quello di Hiroshima, o quella distruzione di Persepolis, o quella di Gerusalemme. E adesso saprai che cosa voglio finalmente che tu mi dica, se sei relativista o no. Beh, mi sembra, risponde il relativista, mi sembra proprio che incominciamo a camminare allo stesso passo. Ora, poni in mente che cosa abbiano in comune i casi che hai appena menzionato. Ti accorgerai che rappresentano rappresentano situazioni che hanno una struttura analoga. In tutti i casi c'è un soggetto che giudica come si comporta un altro soggetto. Nel primo caso si tratta di interpretare l'agire di un altro soggetto, individuale o collettivo che sia, allo scopo di comprendere una situazione di cui al primo sfugge il senso. Nel secondo caso c'è l'intenzione di ridurre l'altra persona a membro della propria cultura, della propria religione o del proprio modo di vita. Nell'ultimo caso c'è l'intenzione di proteggere la propria cultura o certi aspetti di essa. Per cui concluderei che quel quando da cui siamo partiti si riferiva a questi tre tipi di situazioni. Come si comporta un relativista etico quando vuole interpretare, quando vuole convertire e quando vuole sanzionare. Cominciamo ad esaminare questi tre casi, e dico incominciamo perché non li finirò tutti e tre, ma credo che saranno sufficienti almeno per aprire la discussione stasera. Incominciamo ad esaminare questi primi tre casi. Cominciamo dal primo, il caso dell'interpretare. L'amico risponde, sì, incominciamo dal primo, nel caso di interpretare, il relativista dice, se hai scelto bene, infatti, questo è il primo problema che ha preoccupato la cultura moderna, come interpretare le conoscenze che ci vengono o dal nostro passato o dal nostro intorno, o dai nostri avi o dai nostri vicini. Si ricordi del resto come la storia e il viaggio si accavallino nel primo storico della nostra cultura, in Erodoto. E infatti il relativismo avanza parallelamente al lavoro dello storico. Si potrebbe quasi dire che sia stato centrale per la civiltà europea la lotta volta a vanificare, eliminare o addomesticare gli stranieri che di volta in volta le si presentavano, dapprima definendolo semplicemente come infedeli, cioè erigendo nella diversità religiosa la barriera che non bisognava lasciare valicare, poi grazie agli umanisti creandosi degli stranieri interni nel proprio passato. E qui si trattò di una lunga lotta sui testi, in un primo momento per assimilare ciò che appariva straniero, ma non si voleva che lo fosse. Si pensi al lavoro degli umanisti con i classici, gli si voleva dare cittadinanza e assimilarli, ma allo scopo di far diventare i moderni più antichi possibile. Ciò almeno riguardava l'elite intellettuale. Poi la civiltà europea si incominciò ad allargare i propri confini e gli stranieri in carne ed ossa se li trovò in casa. E si trattò o di eliminarli o di usarli come schiavi. Ma era una strategia che non poteva durare, soprattutto considerando che contemporaneamente il mondo europeo si frammentava in unità politiche e per ognuna di queste diventava necessario che vi corrispondessero culture specifiche che ne fondassero le identità distintive, le differenze che le separavano. Così le nazioni, spinte dalle necessità di rafforzare il consenso interno e insieme sanzionare la loro diversità l'una dall'altra, sentivano l'utilità di accompagnare alla politica di potenza i tentativi di una politica culturale. E quindi inni, feste, storia, cerimonie, monumenti e documenti. Ma non mi sembra, che, dice l'amico, che il lavoro dello storico sia così direttamente legato a progetti di costruzione della diversità, come mi sembra che tu ora stia dicendo, e quindi implicitamente a posizioni relativistiche. Beh, nel lavoro dello storico, come del resto nel lavoro di tutte le scienze sociali, occorre distinguere più livelli. Io rifiuto l'idea che all'operare dello storico sia negato per sua natura di essere obiettivo. A livello del ricercatore che ricostruisce situazioni determinate e scopre, analizza, ordina i documenti che gli servono, il dire che non può mai mancare un elemento soggettivo è semplicemente una banalità. C'è ed è visibile l'elemento soggettivo, ma proprio per questo non altera l'interpretazione, semplicemente l'accompagna, ed è proprio la variabile soggettiva che lascia aperta la porta a future interpretazioni in quella conversazione senza fine cui diamo per tema la ricomposizione del nostro passato. Né penso che la conoscenza dei costumi degli altri popoli, la storia secondo Erodoto, in quanto tale obblighi al relativismo etico. È piuttosto quando l'opera storica viene accompagnata da un inevitabile giudizio morale che restiamo disarmati. Lascia che ti racconti un episodio che continuo a ricordare pur dopo passati moltissimi anni per la sua almeno apparente assurdità. Era un anno in cui insegnavo sociologia all'Università di Teheran, abitavo nella foresteria universitaria assieme ad altri professori stranieri, mangiavo alla mensa e mi capitava molto spesso di trovarmi nello stesso tavolo del professore di sanscrito, un indiano, un parsi, cioè un fedele della religione zoroastriana, e quindi dal punto di vista religioso e probabilmente anche etnico, discendente dalla grande società persiana pre-islamica. Eravamo diventati amici, mi facevo spiegare le cose dell'antica storia persiana che conoscevo assai male, e mi facevo consigliare ad andare a vedere questo o quel monumento. Un giorno, a colazione, parlavamo di Persepoli. Io ad un certo punto, stavamo parlando inglese, incominciai ad esprimere così: «When Alexander the Great...» Ma dovetti fermarmi di botto, lo guardai, mi sembrò che stesse soffocando. Aspettai, si riprese, mi guardò con degli occhi di fiamma, alzò la voce: «E lei chiama Great quel criminale che ha massacrato centinaia di migliaia di persone inermi, distrutto città, rovinato grandi civiltà? E Hitler allora?» Cercai di balbettare qualche spiegazione. Si alzò, finì la colazione ad un altro tavolo. Il giorno dopo dovetti partire per Persepoli, visitai quello e gli altri gioielli insuperabili della civiltà achemenide. Al ritorno a Teheran mi rapacificai con il mio amico Parsi, ma non dimenticai l'episodio, che mi rivenne in mente leggendo la critica di Williams al relativismo etico. Pur criticando il relativismo, Williams ammette che a partire da un certo momento variabile secondo la natura delle circostanze, potremmo sottrarre il fatto storico al nostro giudizio morale. Williams avrebbe dovuto conoscere quel mio amico Parsi. Ma sei proprio sicuro, interviene l'amica a questo punto, che possiamo applicare le nostre categorie morali, a fatti storici nei quali ci è impossibile intervenire, perché questa è la posizione di Williams: là dove non si può intervenire è inutile dare un giudizio morale, si deve accettare di essere in qualche modo relativistiche. Ma sei proprio sicuro, dice l'amico, che non possiamo applicare le nostre categorie morali a fatti storici nei quali ci è impossibile intervenire? A me sembra che possa essere normale indignarci nei riguardi dell'apartheid o di Abu Ghraib o dei fatti di Genova o di quello che può essere avvenuto nella piazza di Tiananmen. Anche se invece magari possiamo pensare di è impossibile arrivare a dare giudizi morali su quello che hanno fatto Giulio Cesare, Alessandro Magno, Nerone o Attila. Tu mi dici che ti senti indignato per quei tre episodi che hai riferito, a cui ti sei riferito prima, apartheid, Abu Ghraib, Genova, sì. Eppure in nessuno dei tre casi sei stato sul punto di intervenire. Non ero da quelle parti. Allora perché ti sei indignato? Indignato era un sentimento che non ti serviva a modificare quelle situazioni. Era più forte di me, ne sei sicuro. Perché dubiti di me? Non dubito affatto della tua sincerità, del resto io stesso ho avuto reazioni simili. Ma quello che mi lascia in dubbio è che tu abbia analizzato a fondo il sentimento che ti agitava e che tu chiami indignazione, e che pur riconosci che non ti portava nessuna forma di azione. Non hai mai pensato che il sentirsi indignati non porta all'intervento, tanto che mi azzarderei persino a dire che chi veramente agisce cessa automaticamente di sentirsi indignato. Le preoccupazioni di come procedere nell'azione hanno il sopravvento. Essere indignato gli apparirebbe una distrazione inutile. Ci deve essere qualcos'altro che fa nascere l'indignazione. Cioè? Beh, forse il bisogno di dichiarare, proclamare, forse esibire anche di fronte a se stessi nel momento dell'impotenza gli attributi di quella che è la nostra identità. Quasi uno dicesse: mi indigno, dunque sono. Forse hai ragione, dice l'amico, ma come questo indignarsi opera sul nostro atteggiamento relativistico o no? Beh, cambia il principio di Williams del relativismo della distanza, secondo il quale il relativismo è giustificabile quando le situazioni che vengono esaminate sono sufficientemente lontane da noi nel tempo. In questi casi, come dice Winger, ripeto, usare il linguaggio dell'approvazione, buono, cattivo, giusto, sbagliato, è inappropriato. La critica a questa posizione, però, è quella di sostenere che al giorno d'oggi ogni confronto culturale è in ogni caso un confronto reale. Ma esageri? Beh, più esattamente direi così. Il giudizio morale su un fatto storico è giustificabile se esso ha un valore simbolico per la persona che lo avanza. In altre parole, quando tale giudizio rappresenta una delle componenti costitutive dell'identità di quella persona che servono a farla riconoscere come differente dagli altri, il giudizio morale sarà giustificato. Chiaramente il nostro Parsi aveva bisogno a tale scopo di quell'indignazione che ha manifestato con me riguardo alle imprese di Alessandro Magno. E per chiudere con il relativismo sanzionatore, ti cito un ultimo episodio. Alcuni anni fa a Parigi ci fu un processo contro una madre algerina che aveva operato la figlia di escissione, di clitoroctomia. Fu difesa da un'avvocatessa parigina, ma anch'essa di origine algerina, anch'essa operata da piccola dalla stessa operazione. La difesa dell'avvocatessa fu che lei non si sentiva per nulla danneggiata come donna, anche nei rapporti sessuali, da quella sua situazione. La madre parigina fu condannata a 2 anni di prigione, ma rilasciata immediatamente dopo il processo. Giustizia assolutistica e soluzioni relativistiche sono con noi in ogni momento. Fai tu da... Sì, così, cioè, con dei segnali. Bene, allora, abbiamo forse sposato. Vediamo, questo ci vuole, no? Sì, ce l'ha, tempo. Non lo so. Ecco, sì, grazie. Bene, abbiamo sentito questo dialogo molto curioso che piano piano ci ha introdotto nel tema, diciamo così, toccando questioni quotidiane e poi incrociando ogni tanto anche qualche questione più teorica, analitica, con qualche escursione nella dimensione storica, e alla fine c'è anche tutto sommato una specie di formuletta che forse riassume gran parte dei problemi che il nostro tema propone, cioè l'ultima riga che Sandro ci ha letto, cioè giudizi assolutistici e soluzioni relativistiche. Diciamo, mentre lui parlava, pensavo, in fondo una sociologia degli atteggiamenti che assumiamo nei contesti sociali, secondo la sua tripartizione, diciamo, universalistico, cioè adopera un principio generalizzabile, un principio di ragione, diciamo così, oppure assolutistici, che è forse una radicalizzazione, perché in un tuo passaggio dici quelli più confidenti lo chiamo, quelli più ottimisti lo chiamano universalisti, in realtà sono assolutisti mascherati, ma comunque gli assolutisti, che chiamerei, diciamo, i fondamentalisti, tanto per capirci, e poi ci sono i relativisti. Quindi ciascuno di noi nei vari contesti sociali, sembra dirci Sandro, assume variamente questo tipo di atteggiamenti a seconda un po' della natura del contesto, la natura della materia, la natura dell'incontro, la natura del conflitto che è chiamato in qualche modo a interpretare e a dirimere. Quindi questo richiama l'attenzione sul fatto che, mi sembra che questa è la tesi principale, che io condivido peraltro, ma comunque questo è secondario, che il relativismo non è una dottrina, ma invece è una cosa che ha un forte radicamento nelle pratiche sociali e ha, diciamo così, e che c'è anche un buon uso del relativismo se usato appropriatamente in base al tipo di attori, di contesti, di materie, di situazioni, eccetera, eccetera. Quindi questo sposta un po' la nostra attenzione dal fatto che quando parliamo di un sostantivo ismo, in genere ci viene spontaneo di cominciare molto dall'alto, cioè dalla teoria di questo oggetto, no? Invece mi sembra Sandra ha preferito partire da una specie di ermeneutica, il dialogo facilita naturalmente questo modo di porsi, in cui vediamo un po' cosa facciamo, come ci comportiamo, come ragioniamo e vediamo se, quando e come ci viene, per così dire, di essere relativisti, anche contro i nostri principi al limite. E quindi non teoria, non dottrina, ma certamente una cosa che socialmente parlando è una cosa che invece ha una sua presenza diffusa, quelle che poi alla fine vengono chiamate soluzioni relativistiche. Ma non sappiamo naturalmente neppure di noi stessi se, come, quando preferiremo avere un atteggiamento assolutista, universalistico o relativistico, dipende moltissimo appunto dall'occasione in un certo senso in cui ci troviamo, anche se probabilmente il ripetersi di queste pratiche alla fine lascerà anche una traccia nella identità personale, in cui ci saranno delle persone che più si troveranno a proprio agio in un quadro, diciamo, relativistico, e altre che poi nel corso della vita preferiranno invece orientarsi in una delle altre possibili direzioni. Però, diciamo, dal punto di vista sociale la cosa più interessante è che in realtà ci sono queste miscele, ci sono queste alternarsi di posizioni, di beliefs, di credenze, un po' opportunisticamente a seconda del contesto. Qua si potrebbe richiamare forse una relazione tra relativismo e giustizia locale, tu stesso hai un po' sottolineato questa dimensione, cioè in fondo quando cerchiamo soluzioni a problemi di giustizia locale, quindi criteri che devono essere molto contestuali e non diciamo necessariamente universalizzabili, ma che riteniamo giusti per quel contesto, per quella materia, per quelle persone, eccetera, eccetera, siamo portati ad assumere un po' un punto di vista relativo, di dire e questo fa anche pensare che nel relativismo, in questo relativismo pratico più che teorico, diciamo, in qualche modo c'è anche una sospensione, un'epoca del giudizio, cioè diciamo, io forse penserei che, ma per ora e per questo caso, tutto sommato, come ha fatto un po' il giudice, che ha condannato a 2 anni ma non ha fatto scontare la pena, in qualche modo un compromesso, naturalmente che lascia aperti moltissimi problemi di principio, questo è evidente naturalmente, no? però ci apre almeno uno sportellino su questa realtà compromissoria della realtà, in cui il relativismo quindi diventa una possibile risorsa cognitiva e motivazionale che può essere utilizzata per sciogliere alcuni nodi che altrimenti potrebbero avere anche altre soluzioni, però più dolorose forse, più costose ancora, no? Come se usassimo criteri astratti di principio universale per un caso concreto e poi succede il patatrac, oppure si crea una vittima innocente, magari vuoi dire, però qui abbiamo la giurista di fronte, mi vengono dei turbamenti, cioè vuoi dire, prima la norma e poi la persona, nel relativismo un po' prima la persona un po' e poi eventualmente la norma, poi ci ripenseremo eventualmente, cioè vuoi dire. Forse dal punto di vista cognitivo il relativismo perciò è anche accompagnato da una certa parentela, Sandro non ha usato questo, però ha usato autori impliciti o anche espliciti come Williams, che un po' fanno parte forse in quel caso, cioè lo scetticismo inglese mi viene in mente, no? Cioè comunque scetticismo e relativismo hanno qualche parentela, non saprei dire perché non è mia competenza, ma indubbiamente mi viene in mente qui, per esempio pensando a Montaigne, il modo in cui relativizza i giudizi sui contesti, sulle persone, anche su cose molto gravi e pesanti della storia umana, in fondo c'è una specie di presa di distanza in cui appunto si adopera, vale tutto il discorso che tu fai nella parte finale del tuo ragionamento, è una presa di distanza in cui, come dire, c'è anche una pietas rivolta a questo passato, chissà questi poveracci quanto hanno sofferto, in definitiva perché devo essere io un giudice così radicale. E quindi con questo atteggiamento un po' di presa di distanza e anche di equilibriamento delle valutazioni pro e contro, alla fine si sviluppa una forma di saggezza pratica e morale che aiuta nella vita evidentemente e anche un processo di maturazione. Qui cerco di enfatizzare la componente più positiva che deriva non dal relativismo come teorico ma dal relativismo come usato nelle pratiche sociali, no? E quindi queste sono delle parentele, diciamo così, semantiche, anche di genealogia che non saprei esplorare, ma certamente penso che ci siano nella storia del pensiero, ci sono, e del resto anche Sandro ha fatto qualche riferimento a questo. Però venendo a, vuol dire, uscendo dalle pratiche più concrete, per così dire, quotidiane, un po' fenomenologiche, nelle quali è più facile intendere che il relativismo in fondo noi lo pratichiamo anche senza crederci, per così dire, fino in fondo, perché ci aiuta a campare in un certo senso. Però d'altra parte è vero che siamo invece esposti a qualche problema in più quando alziamo un po' lo sguardo al contesto immediato e siamo chiamati, come in molti dei casi che richiamava Sandro, a fare delle valutazioni più impegnative o sul passato o sul presente, e in questo caso ci scontriamo con delle forme più radicali di relativismo. Il caso dell'antropologo che sconta il suo senso di colpa per essere stato un agente dell'imperialismo, del colonialismo, dicendo no, ma tutte le precarietà, quando mai universalismo, ogni cultura ha la sua dignità. Io la interpreto così, questa posizione un po' ipocrita di questi antropologi che tu hai citato. Ma comunque, effettivamente, per esempio in tempi recenti, mi viene in mente in fondo che quando è che siamo sollecitati, diciamo anche la cultura europea è stata sollecitata a sviluppare un atteggiamento relativissimo in alcuni casi fortemente drammatici, no? Per esempio di fronte al Novecento, Novecento come secolo degli orrori, delle tragedie, cioè inteso in questo versante, comunismo e fascismo, come faccio a distinguere, alla fatica di distinguere, in fondo prendendo un po' di distanza un po' è tutto uguale, cioè il relativismo qua diventa una specie di parità morale dei contendenti, e già si è visto nel revisionismo storico quanto questo possa produrre, e qui il relativismo è una specie di argomentazione del tipo sì, è vero, in teoria si potrebbe anche fare un lavoro più fine di valutazione, distinguendo, ma no, la fatica di questa differenziazione è tale che in fondo mi accontento di un giudizio che mette insieme, sono tutti un po' uguali. In fondo questo è molto simile a quella saggezza pratica che è registrata in Proverbi, in cui un po' sono un po' sempre la stessa papa, sono un po' tutti uguali, anche forme di qualunquismo politico un po' si appoggiano ad una visione in cui indifferenziata della realtà, tutto sommato, no? Quindi naturalmente anche forse dal punto di vista epistemologico è fortemente scettica, non si può conoscere, quindi chi se ne frega in fondo, no? Quindi il relativismo poi è la conseguenza pratica nel giudizio o anche eventualmente nell'azione. Direi, per stringere molto, direi, di fronte a grandi catastrofi rispetto ai quali il giudizio morale è sì sollecitato ma sembra impotente, oppure di fronte ad una crescente complessità del reale in cui non riesca a sapere, non riesca a conoscere, a parte che non riesca a intervenire, a operare, insomma, no? Allora a quel punto il rifugio cognitivo nello scetticismo e pratico nel relativismo probabilmente è una specie di refugium peccatorum in cui dice vabbè, per intanto mi accontento di questo, tanto non ci posso fare niente, né io questa oscurità, questa opacità la posso realmente penetrare, quindi forse qualche volta chi assume questi atteggiamenti non è nemmeno consapevole, diciamo, degli antenati della genealogia di, appunto scettica magari di questo tipo di pensieri, però sono evidenti anche le conseguenze pratiche, operative di questo atteggiamento. Cioè, quindi in sostanza, se mi chiedo, c'è una relazione, una correlazione statistica tra relativismo e confronto con qualcosa che è inestricabile o è troppo grosso o è troppo pesante, per cui alla fine diciamo sono chiamato a dare un giudizio su una cosa che in fondo non riesco né a capire ed è troppo grossa per me, e quindi divento prima scettico e poi in fondo relativista, in fondo sono tutti uguali, no? Per quanto mi riguarda sono un po' tutti uguali. Questa è una possibile domanda, nel senso che forse questo potrebbe anche spiegare perché alcune, diciamo, forme di relativismo più elaborato, più, tra virgolette, teorico, si sono sviluppate proprio nei decenni recenti, no? Tu diciamo così, hai citato relativismo etico e relativismo epistemico. Le cose sono un po' intricate, però quello epistemico forse risulta abbastanza robusto se uno pensa alla storia e sociologia della scienza post-cuniana, in cui appunto fino alla Bruno Latour per esempio, allora sembra che quei saperi non siano assoluti, cioè universali in quel senso, ma relativi ad una razionalità universalizzabile, ma siano molto pertinenti e dipendenti da contesti sociali, storici, istituzionali, antropologici determinati, e quindi relativi in un certo senso. Quindi cioè è un'implicazione possibile che tra l'altro Latour o altri non fanno, ma altri lo hanno fatto, soprattutto nel pensiero postmodernista, insomma hanno rimescolato queste cose in modo anche un po' dilettantesco, io penso, perché di scienze tecniche in realtà questi sapevano poco e niente, però diciamo ne parlavano con una cosa che in fondo era molto relativa, oppure era molto occidentale, oppure altre categorie che relativizzavano comunque e comunque riportavano a quella tesi che tu hai posto quasi all'inizio, cioè di questi degli antropologi che diciamo ogni cultura è diciamo valida in sé, non è comparabile, è intraducibile, è incommensurabile e quindi non è universalizzabile, quindi diciamo il relativismo è implicito in questo tipo di valutazione, non posso scegliere, no? Naturalmente c'è un paradosso un po' implicito che ciascuna di queste culture che viene posta come nel rapporto con le altre culture è relativa, oppure diciamo in realtà è posta come assoluta, ciascuna è assolutizzata, tutte sono assolute, nessuna è relativa, quindi dipende a quale di questi io decido di appartenere, se fosse possibile questa scelta, ma normalmente questa scelta non si dà e quindi io da osservatore esterno divento un relativista, cioè pratico relativismo. Non so questi antropologi quali volevano evidentemente immaginare delle formulazioni contestualizzate di principi universalistici, semmai fossero possibili, però diciamo, per chiudere, effettivamente questa, diciamo, mentre capisco e intuisco l'uso pratico del relativismo per sciogliere, come fai tu, quello che tu chiami qui appunto soluzioni relativistiche nei contesti delle pratiche sociali, è una cosa che ha un senso e si può capire, no? Il relativismo culturale, sia nelle sue forme epistemiche sia in quelle forme etiche, mi sembra ovviamente altamente problematico, anche se, ripeto, di fronte alle catastrofi del Novecento e di fronte alla complessità della realtà è possibile che abbia trovato un suo rafforzamento, qualche sua ragion d'essere, almeno come risposta sintomatica ad una situazione vissuta come di crisi o critica, diciamo. Mario De Caro e sono filosofo e non so se i non filosofi si rendono conto che questo è un paper che avrebbe potuto scrivere un filosofo, e c'è anche una tesi molto originale, ma il professor Pizzono non è un filosofo, quindi non è una cosa di tutti i giorni. Sì, in questo senso forse. E quindi no, questo è un aspetto importante, soprattutto in Italia dove si tende a essere molto settoriali, no? La tesi fondamentale con cui ha criticato la prospettiva di Williams è originale e importante, sono perfettamente, mi ha convinto, non ci avevo pensato prima, insomma l'idea che il distacco non sia sufficiente, il distacco temporale non sia sufficiente per dire lì non ha senso esprimere valutazioni, perché c'è un aspetto simbolico che Williams non considera, perfettamente, trovo un'ottima tesi. Allora però i filosofi fanno così, specie quelli analitici come Williams a cui il professor Pizzono si risolve, invece di dire quello su cui sono d'accordo dicono quello su cui non sono d'accordo. Allora ho quattro piccole cose. La prima, quando Pizzono ha scritto e poi detto, e infatti il relativismo avanza parallelamente al lavoro storico, si potrebbe quasi dire che sia stato centrale per la civiltà europea la lotta volta a vanificare, eliminare o addomesticare gli stranieri che le si presentavano, quindi il relativismo funzionale al dominio degli europei nel mondo. Qui ho qualche dubbio, perché in verità, sì, in certe occasioni c'è stato sicuramente usato lo strumento del relativismo, ma spesso e volentieri c'era quello dell'assolutismo. Se uno prende la politica di Aristotele, la giustificazione della schiavitù che lui dà, dice certo, giusto, ci sono